selling. Up and out. Non si sente una sega. Ma Lucar, ma non c'hai altre idee? No. Bella raga, benvenuto su Radio XXX, la radio dove ci sono i più bastardi maledetti. Mi sono rotto il cazzo, giusto? Giustissimo. I don't got no curfew, no. It's a late night. Yeah. It's a late night. Sopra Radio XXX. I don't got no curfew, no. It's a late night. Yeah. It's a late night. Sopra Radio XXX. Voglio musica figa, non ascolto liga. Radio XXX. Non è male mica, combino e che ievine che conduce. Cercavo Nirvana e trovo la luce. Pino nelle casse a manetta, là in cielo, streaming nella diretta. È roba che sfonda, che pompa, che già va rimonta, le cuffie smonta. Pino, Pino DJ, music selecta, non perderlo. Ora collegati in fretta, hit list, playlist, new shit e fuoco al mic che va in repeat. New skip by me, scaricati anche il CD. Fuoco alle casse, brucia anche il beat. Sei sopra Radio XXX. I don't got no curfew, hell no. It's a late night, yeah. It's a late night. Sei sopra Radio XXX. I don't got no curfew, hell no. It's a late night, yeah. It's a late night. Sei sopra Radio XXX. And we don't sleep, they wondering what's in our cup. I drink that hard stuff, Starbucks. Hit me on my Twitter, on my Facebook, on my MySpace. And if you don't have curfew, you can crash out at my place. I don't got no curfew, hell no.